Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove? Eh sì, è la pioggia che ha dominato in questa domenica. 800 24 00 24, vi aspetto, tutti convocati, fino alle 19, oppure 349 238 6666, vostri sms, vostri whatsapp. Pioggia che ha sospeso Genoa-Fiorentina sullo 0-0 dopo 28 minuti del primo tempo, e ha sospeso per oltre un'ora Roma-Sampdoria, che invece è ripartita da 2 minuti e 42 secondi 1-2, il risultato all'Olimpico. Vi racconteremo tutto questo secondo tempo, ma piove anche sul Milan, piove su Montella, sconfitto 1-0 in casa dall'Udinese, gol di Perizza al minuto numero 88, e quindi insomma sul Milan si aprono scenari e ragionamenti che fanno ritenere molto più lontano di quanto sia la vittoria a debutto contro il Toro, sempre a San Siro. Saluto Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao a tutti. Carlo? Eccomi. Eccoci qua, in questa domenica di pioggia che ha visto cadere il Milan. A proposito di pioggia? Sì. Di sole, di caldo e di macchine ferme. Sì. Però c'è sempre il telefono, quindi possiamo ovviare. Andiamo a San Siro dal nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao Giovanni, sì, davvero piove sul Milan, 1-0 per l'Udinese in una partita veramente davvero brutta, l'aggettivo più semplice ma più spontaneo che mi viene in mente. Davvero c'è stato pochissimo, fino al gol di Perizza, un Udinese poco più coordinata, un Milan che ha trovato sì una traversa al 31esimo con Sosa, schierato ancora una volta nella posizione di regista, ma anche in questo caso esperimento direi fallimentare, un Milan che non ha prodotto nulla e che poi ha cercato invano il pareggio nei minuti di recupero. Andrei subito in fase di commento col nostro ospite qui da San Siro, Giovanni, se sei d'accordo, Stefano Scacchi della Repubblica. Allora sì. Stefano, davvero un Milan inguardabile, mi ha permesso questo aggettivo, tu che dici? Ma è stato magari un po' guardabile, diciamo, all'inizio, primo quarto d'ora, primi 20 minuti, prima mezz'ora, poi è progressivamente sparito dal campo, e forse il problema di oggi è stato che per la prima volta il Milan si è trovato di fronte a una squadra chiusa che non l'ha lasciata giocare. Con Torino e Napoli non era stato così, e il Milan non è riuscito ad aprire nessun varco nella difesa dell'Udinese, e alla distanza è progressivamente calato. Forse il Milan ha troppi palleggiatori e pochi giocatori in grado di andare dentro, verticalizzare e quindi spaccare un po' le difese avversarie. Sì, è un Milan che è destinato a fare fatica quando si trova in queste condizioni tattiche. Questo mi sembra possa essere un po' la lezione di oggi, oltre al fatto che la qualità è quella che è, ma questo si sapeva. Sì, sì, assolutamente, credo che il tema sia proprio quello, cioè col Torino e col Napoli ha avuto più spazi, a Napoli poi stiamo parlando di una sconfitta, però comunque di una partita tutto sommato in cui il Milan aveva dato segni di vita. Oggi ha proprio dimostrato che con una squadra che ha usato anche dei mezzi, diciamo, che non si vedono sempre nel campionato italiano negli ultimi anni, ma il giocatore a terra, il tentativo di perdere tempo, contro queste astuzie qua il Milan non è riuscito a organizzare nessuna contromossa, e forse anche Montella ha aspettato un po' troppo quei cambi. Non è vero che in panchina non ha una qualità enorme, però forse era la classica partita in cui giocare un po' più sulle sostituzioni con qualche minuto d'anticipo. Dario. Sì, è sembrato proprio un Milan sotto ritmo, lentissimo nel manovrare il pallone, che ha, devo dire, ha deluso anche in quegli uomini che spesso sono quelli che invece riescono in qualche modo a trovare l'accelerazione. Chiedo ancora conferma a Stefano, direi ad esempio lo stesso Suso, questa molto prevedibile nel suo rientrare sempre sul sinistro, e lo stesso Bonaventura in una delle prestazioni in cui è più confusionario che utile, no? Sì, Suso, ecco, all'inizio all'inizio forse il primo tempo era stato il migliore del Milan, poi è un po' scomparso, è un po' sceso. Buonaventura, ecco, fin dall'inizio non è stato il massimo, ma proprio perché la difesa dell'Udinese tendeva bene, secondo me, a isolarlo sulla fascia, anche con magari due, tre uomini, e lui non è mai riuscito ad accentrarsi, quindi direi assolutamente sì, questi uomini, ecco, Suso salverà il primo tempo perché secondo me lì è stato forse il migliore del Milan. Sì, comunque generalmente un passo indietro. Allargo il discorso anche a Carlo Genta, visto che la qualità del Milan, lo abbiamo detto, lo sappiamo, è questa, con tutti i limiti dell'estate che è stata vissuta e che non è ancora finita col passaggio societario, un mercato che di fatto non è stato portato a termine. Io però volevo capire se Montella può dare qualcosa di più. Ad esempio, vi chiedo ad esempio se 5 minuti più 8 di recupero, perché c'è stato l'infortunio ad Antonelli, non sono un po' troppo pochi per la Padula, che è di fatto l'altro unico attaccante che tu hai in panchina. Il discorso è questo. Allora, il Milan è una piccola squadra, cioè il Milan è una squadra che con la Sampdoria, con quelle che stanno sotto, lotterà per l'Europa League, quindi non è inutile fare discorsi da grande squadra. Il Milan è una squadra che dovrà ricostruirsi, dovrà riformarsi. In questo momento il Milan è una squadra che ha solo i colori della grande squadra. In questo momento non è una grande squadra. Stefano Dario. Ecco, beh, bisogna dire sì, è inevitabile concordare con quanto stai dicendo a studio, quanto ha detto Carlo. Un aspetto da sottolineare: gli 8 minuti sono dovuti anche, oltre all'infortunio di Antonelli, anche ai time out che sono tornati una volta per tempo intorno al 26esimo, 2 minuti di sosta. Stefano, ti chiedo una battuta anche su questo. Sembra ormai sia diventata un po' un'abitudine più utile per le TV che per i giocatori, perché oggi è vero che fa molto caldo qui a San Siro, ma tutto sommato. Credo sia obbligato. Probabilmente eravamo sopra i 32 gradi, quindi, credo decida il termometro. Oramai è dentro il regolamento, l'abbiamo visto anche su altri campi in questo fine settimana. Ditemi qualcosa su Montella, vi giro anche un messaggio che è arrivato, 349-238-6666, forse Montella è sopravvalutato, io credo sia ingeneroso, però... No, beh, mi sembra ingeneroso, sinceramente. Montella a Firenze faceva vedere un signor calcio e credo che non abbia neanche avuto gli uomini che chiedeva. Quando parlavo di quei centrocampisti che entrano, a Firenze ne aveva, cioè gli servono quel tipo di giocatore. Secondo me la sconfitta di oggi, la cosa brutta, prima parlavate anche della società, la trattativa, è che Montella in un certo modo, secondo me, è chiamato a costruire una sorta di bolla nella quale la squadra deve cercare entusiasmo in attesa che si capisca e si definisca questa trattativa. È un compito difficile perché i calciatori, nel momento in cui la società ha una transizione come quella adesso, i calciatori sono abilissimi a fiutare il vento, hanno bisogno di certezze come pochi. Lui deve creare una bolla nella quale i calciatori trovino entusiasmo. La sconfitta di oggi da quel punto di vista lì è molto delicata, perché in un certo modo interrompe, buca questa bolla, no? Che un minimo si stava creando, e dopo oggi questa bolla, insomma, è abbastanza a rischio. Sì, rende tutto più complicato. Abbiamo il traffico, Dario. Ringrazio Stefano Scacchi, ti chiedo però di restare lì, magari si trovi anche un altro ospite, perché tra l'altro introduciamo anche un altro tema, Carlo, e cioè di queste voci su un Milan prossimo futuro sempre più simile all'Inter degli ultimi anni a livello dirigenziale. No, lo abbiamo letto. No, perché l'Inter comunque è una signora squadra. No, no, ma nei nomi che Fassone sta portando dentro la società. Aspettate però, perché siamo in ritardo per il traffico. C'è anche Mauro da Bergamo, 800-24-00-24, 11 minuti sul cronometro, Roma 1, Sampdoria 2, ma si sta giocando con la Roma che sta provando in tutti i modi a rimettere in piedi la partita. In questo secondo tempo sono entrati Dzeko e Totti al posto di El Shaarawy e Perotti, quindi Spalletti si è affidato ancora una volta all'esperienza e al cuore di Francesco Totti. Traffico, torniamo subito. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenze, comincia anche a piovere, tutto. Tutti convocati. Tutti tutti convocati. 8-0-0 24-0-0 24, Roma vicinissima al pareggio con Dzeko, minuto numero 13 di questo secondo tempo, con la Samp che è avanti 2-1 all'Olimpico e con Dzeko che è andato davvero a un passo dal pareggio. Il suo destro è stato toccato e messo in calcio d'angolo. Qualche messaggio è arrivato: 349-238-6666. Attualmente il Milan è una squadra che deve salvarsi. Il primo traguardo sono i 45 punti. Io non credo sia questa la fotografia. Non so, Carlo, se tu condividi. Sì. È vero però che il Milan è una squadra che va valutata per quello che è. Giovanni, l'ho detto prima, valgono i colori, valgono... vale il passato, però il Milan in questo momento è una squadra che sta con la Sampdoria, sta con il Genoa, sta con quelle che devono andare in provare ad andare in Champions League. Sì, devono giocare per andare in Europa League. 800 24 00 24, Mauro da Bergamo. Mauro. Sì, grazie per avermi convocato. Prego. Io buttavo un argomento sul tavolo che è un po' il mio sogno. Cosa pensate voi, se o meglio, quanto tempo ci vorrà per poter pensare a una Champions League costruita sulla falsariga dei campionati professionistici americani? Niente, retrocessioni. Sì, la Superlega. La Superlega. Perché lì si pareggerebbero competenze, si pareggerebbero abilità, non vince chi ha più soldi. Che è vero che non è sempre così, ma generalmente così, sarebbe il mio sogno. Io credo, Mauro, che ci voglia tanto tempo, hai tanto, ragione Carlo. Tanto. In realtà io penso che già la riforma che parte dal 2018 e che è stata approvata, quella che se riusciamo a tenere il quarto posto nel ranking UEFA darà all'Italia quattro posti fissi e non più i 2+1 ai preliminari che abbiamo adesso, già quella riforma lì aiuterà, perché la verità, e lo abbiamo visto, poi magari ne parleremo, è che la Champions League costruita così come è stata costruita in questo momento è la tomba dei campionati nazionali, perché crea delle superpotenze. E tutti gli altri fanno fatica, Carlo. No, il discorso è che ormai la Champions League è un giardino che vale per le grandi squadre, vale per le squadre che hanno tanti soldi e quindi non esiste Europa League, non esistono grandi... Intanto ha pareggiato la Roma, gol di Dzeko al 16° minuto del secondo tempo. Dzeko scattato sul filo del fuorigioco, ha saltato il portiere della Sampdoria e ha segnato il gol del 2-2. Saluto Sandro Tovaglieri. Ciao Sandro. Ciao, buonasera. Che ti sta sembrando di questa Roma? Nel momento mentre faceva il gol Dzeko. Diciamo che il secondo tempo è entrata con un altro piglio, 20 minuti ha messo le corde della Sampdoria, il primo tempo era partita bene, poi subito questi due gol, un po' la difesa ha lasciato un po' a desiderare, invece è rientrata in campo con una convinzione diversa, forse anche l'ingresso di Totti che ha rinforzato un po' di entusiasmo, anche se c'ha 40 anni, però quando entra lui si infiamma lo stadio, anche se c'è poca gente. Sì, è un po' la carta della disperazione. Io non so cosa ti è sembrato della Roma del primo tempo. La Roma ancora abbastanza involuta. Sì, ma più che del primo tempo credo che sia in una fase dove ancora non ha smaltito la delusione della Champions e anche il pareggio di due settimane fa vincendo 2-0 a Cagliari. Roma è una piazza un po' particolare, si era partito con tanto entusiasmo. L'eliminazione della Champions se ne aspettate ha creato un pochettino di imbarazzo, però la squadra credo che sia una buona squadra per fare un grande campionato, al di là del fatto che la Juventus credo che insomma sia la netta favorita. Sì, Juventus che mi pare tu possa condividere quella vista ieri, fa un campionato diverso rispetto alle altre. Sì, ha giocato 30 minuti, poteva fare 5-6 gol, quando giocherà 90 minuti credo che insomma quest'anno la squadra sia notevolmente rinforzata, che credo che punterà molto di più sulla Champions, ma credo che nel campionato le squadre dietro facciano fatica, per quanto Roma e Napoli superiore. Poi c'hanno quel signorino là davanti che è una cosa illegale, ogni volta che fa dei gol straordinari. Sì, sì, sì, è un giocatore che forse la Juve non avrebbe nemmeno bisogno di avere un terminale così forte, almeno per quanto riguarda il campionato italiano, però visto ieri dà quasi l'impressione di avere quasi la possibilità quest'anno di ragionare di andare ad attaccare quel record fatto l'anno scorso, o no, Sandro? Beh, sicuramente gioca in una grande squadra dove potenzialmente vengono costruite tantissime occasioni da gol. È indubbio che la Juventus ha tantissimi giocatori che possono fare gol. A Napoli l'anno scorso più che altro giocavano tutti per lui, però è un giocatore che sicuramente col potenziale che hanno si costruiscono 4-5 situazioni da gol solamente per lui, e lui dentro l'area di rigore credo che sia uno dei più forti al mondo. Non so se farà 36 gol, ma insomma credo che darà un contributo elevatissimo, soprattutto in Champions, che credo, come hai detto te, è importante là, perché in campionato, pure se gioca Mandzukic, credo che no, farebbe lo stesso tanti gol. Intanto, mentre la Roma continua ad attaccare per cercare il gol del 3-2, Roma che ha preso questo secondo tempo decisamente con un piglio diverso, c'è anche Paolo da Treviso che ci sta aspettando, 800 24 00 24. Approfitto di Sandro Tovaglieri, cuore giallorosso, per chiedergli un parere sulla vicenda dello Stadio Olimpico, che ieri ha buttato lì Baldissoni, l'ipotesi, l'idea di andare a giocare da qualche altra parte. Oggi Baldissoni c'è tornato, magari te lo faccio sentire e poi vorrei sapere cosa ne pensi. Ci sono delle difficoltà particolari a Roma, non stiamo riuscendo a trovare una soluzione per migliorarli, questo ci induce a chiederci se possiamo fare qualcosa di meglio, ma per il momento era una riflessione di questo tipo in un contesto anche più ampio e che ci vedrà concentrati a trovare delle soluzioni. Quindi per il momento rimane all'Olimpico la Roma? Oggi siamo all'Olimpico, oggi giochiamo all'Olimpico. Tanto sarà ad un passo dal 3-2. Tu cosa ne pensi, Sandro? Beh, io credo che oggigiorno le società, se si fanno uno stadio di proprietà, sicuramente gli introiti sono diversi, si può gestire meglio. La situazione dell'Olimpico è una situazione un po' particolare, perché è uno stadio grandissimo, è uno stadio dove si comincia a far fatica a vedere bene le partite, più che altro la gente non è più la gente di prima, quindi uno stadio di 40.000, 50.000, eccolo. No. Tanto Roma vicinissima ancora, al 3-2 con Dzeko. Mentre parlavo dello stadio stavo esultando io. Sì, sì, sì, parata di Viviano sulla linea di porta. Sì, io credo, chiedo anche a Carlo, che sia però triste e impensabile ragionare su una Roma... Senti, quanti gol farebbe Higuain nella Roma di oggi? Quanti gol farebbe Higuain nella Roma di oggi? Beh, in quella di questo secondo tempo credo tanti, che ne sta creando di occasioni. Sandro? Beh, lui ne farebbe tanti. Noi abbiamo un centravanti che sono contento che ha fatto gol. L'anno scorso ha passato una stagione un po' sottotono, forse l'ambientamento. Quest'anno sicuramente mi aspetto qualcosina in più. È un giocatore che sicuramente non è un grandissimo fuori classe, ma non è neanche il giocatore visto l'anno scorso. Poi non so, ogni volta che arriva un campione qui a Roma fa difficoltà, quindi avrei paura anche di Higuain, a parte la battuta, però credo che Dzeko quest'anno sia un pochettino diverso dall'anno scorso, può fare sicuramente meglio. Sì, intanto Viviano si sta superando, altro paratone questa volta su Salah per sigillare il 2-2. Siamo a metà del secondo tempo, ma diciamo la verità, il gol del 3-2 è abbastanza nell'aria. Grazie Sandro. A voi, buona serata. Grazie Sandro Tovaglieri. Stiamo seguendo anche Swansea-Chelsea, la sfida tra Guidolin e Conte in Premier League, con il Chelsea che alla mezz'ora è avanti per 1-0. 800 24 00 24, in attesa di sentire gli allenatori, partendo da Montella, sconfitto a San Siro, Paolo da Treviso. Paolo. Sì, buonasera. Io volevo intervenire soprattutto sul discorso allenatori che avevate affrontato anche in trasmissione qualche giorno fa. Su quelli che sono gli allenatori che determinano. Infatti ero d'accordo con quel ascoltatore che aveva chiamato dicendo che chi determina e lascia un'impronta ben precisa sono Michels, Sacchi e Guardiola. Sì. Tutti gli altri possono essere dei buoni allenatori, dei bravi allenatori, ma non determinano come hanno determinato questi tre allenatori che resteranno. Infatti si è visto anche ieri nello scontro tra Mourinho e Guardiola, chiaramente chi è quello che sa fare l'allenatore meglio. Mourinho è un bravissimo venditore di fumo, e dopo però a sostanza le sue squadre non è che giochino granché. Sì, io non credo però io non credo però Paolo, non so cosa ne pensi tu Carlo, che Mourinho vada etichettato come venditore di fumo. È un allenatore che lavora su motivazioni, su tante altre cose. No, ne abbiamo parlato tantissimo anche venerdì con Paolo Condò, che ha scritto quel bellissimo libro sul confronto tra Mourinho e Guardiola. Non è un venditore di fumo, certamente non è un venditore di fumo, certamente è un grandissimo allenatore, certamente gli allenatori sono vagamente sopravvalutati. Sì, secondo me. In tanti casi, anche perché oramai sono diventati più che altro gestori di grandi spogliatoi, di grandi professionisti. C'è la pausa, 25esimo in corso all'Olimpico, 2-2 tra Roma e Sampdoria, torniamo subito. Che se vinco gli mancano i capelli a Spalletti. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. 29 minuti all'Olimpico, nel secondo tempo 2-2 tra Roma e Sampdoria, con Viviano che sta facendo davvero il fenomeno, ha anche sporcato un paio di conclusioni di Salah, la Roma davvero vicinissima al gol del 3-2. Rapidamente a San Siro dal nostro Dario Ricci. Dario. Sì, sono qui con Franco Ordine, inviato del giornale. Proviamo a vedere che peso ha, Franco, questa sconfitta non tanto a Milano quanto a Pechino. Non è certo il miglior biglietto da visita per questa cordata, per la nuova proprietà che ha fatto pure passi importanti proprio in settimana. Beh, vabbè, intanto questo non c'entra niente con la proprietà cinese, perché loro cominceranno, se tutto va bene, a novembre col mercato di gennaio. Semmai deve incrementare e moltiplicare i loro rimpianti per non essere intervenuti prima sul mercato, come avrebbero potuto tranquillamente fare. Questa è una sconfitta che appartiene esclusivamente a questa gestione, a questa squadra, che è una squadra modesta, di modesta caratura tecnica, nella quale appena mancano un paio di pedine come Kučka e Niang pagano pegno, e in cui appena c'è qualche giocatore tipo Bonaventura nettamente al di sotto del suo standard di rendimento pagano pegno. Poi hai anche la sfortuna di beccare gol su una palla deviata, su una palla innocua deviata, a quel punto arrivederci, grazie. E questa è la classica sfortuna dei deboli, Franco, mille volte viste partite perse così. Volevo chiedere a te, e chiedo a tutti, che cosa ne pensate invece dell'altro tema che sta facendo molto discutere tra i tifosi del Milan, e cioè questo nuovo Milan che Fassone sta costruendo prendendo a piene mani tra ex dirigenti o dirigenti dell'Inter. Beh, questo però è un errore clamoroso. Io mi pare che proprio a tutti i convocati l'ho detto in largo anticipo quest'estate, quando ho detto attenzione a commettere questo errore, perché è un errore clamoroso. Non si può pensare di ricostruire il nuovo Milan da una serie di costole interista, anche perché poi, tra l'altro, voglio dire, questo nuovo direttore sportivo che tra l'altro, del quale non si conoscevano le virtù che sono state decantate nelle ultime ore, questo ha come precedenti Cosenza e Rende, se permettete, poca roba, anzi per dirla tutta pochissima roba. Quindi sarà anche noto a Fassone, che lo conoscerà bene eccetera, però non è certamente uno che può giustificare un passaggio del genere. Avrei capito di più ausilio, allora sì. Tu dici quindi... una figura già fatta e finita. E poi vi saluto e vi ringrazio con chi ce l'aveva Albertini. Oggi il tweet che ha pubblicato questa foto presa da un'immagine di curva di San Siro con questo striscione: io non sono interista. Ce l'aveva proprio con Fassone, con chi ce l'ha con me? No, però voglio dire, noi stiamo parlando di una bandiera che con Fassone dovrà probabilmente confrontarsi nei prossimi giorni per ragionare su un rientro in società. Ma lui evidentemente è una presa di posizione forte. È certo, una presa di posizione forte che secondo me segnerà da qui alle prossime settimane il futuro del nuovo Milan cinese, perché si capisce benissimo che questo ha innescato una polveriera, perché voglio dire, non è il modo migliore per presentarsi al pubblico milanista. Che oggi come l'ha presa, Dario? Malissimo. Direi che neanche Franco ci sono stati tanti fischi. No, poca roba. Silenzio. Sì, proprio di sgomento. Sì. Cioè, che la partita non si fosse messa bene, si era capito subito. Esatto. È una partita in bassissimo ritmo, ma proprio quando è arrivato questo gol, che ha preso più di sorpresa, forse l'Udinese che l'ha fatto, ma proprio il pubblico di San Siro non è stato capace neppure della contestazione. Sì, è purtroppo anche questa una fotografia, Carlo, di quello che è il Milan oggi. A te che impressione fa il Milan che fa shopping tra i dirigenti dell'Inter, Carlo? No, ma io sono in disaccordo con tutto quanto, nel senso che il Milan deve ricostruirsi, deve rifondarsi, quindi non è una fotografia ideale quella che è uscita oggi dal Milan, nel senso che comunque non è Fassone, non sono i dirigenti dell'Inter, non è questione di bandiere. Il Milan deve rifondarsi su quello che ha. In questo momento il Milan è una squadra di media classifica, quindi è inutile dare la colpa a Montella, è inutile dare la colpa ai giocatori. In questo momento il Milan è una squadra di bassa classifica, cioè di media classifica, che deve rifondarsi. Sì, che è destinata a fare molta fatica, lo abbiamo visto anche oggi, soprattutto se poi dovesse spegnersi, ce lo diceva prima Stefano Scacchi, anche quello che c'è di entusiasmo. A proposito di Montella, ve lo faccio sentire pochi minuti fa, il suo commento su questo Milan Udinese. Ma sicuramente non siamo contenti del risultato, anzi c'è molta amarezza, la partita che è difficile, era difficilissima la vigilia, lo è stata anche in campo perché abbiamo trovato una squadra molto compatta, molto bassa, era difficile trovare il cambio ritmo, abbiamo fatto poco, quando abbiamo fatto abbiamo creato qualche difficoltà all'Udinese. Io credo che sul finale sia stata veramente una beffa, perché c'è stato anche un pizzico di sfortuna con la deviazione, perché eravamo posizionati bene. Peccato, perché quando non puoi vincere è importante non perdere, vuol dire che dobbiamo lavorare ancora di più, dobbiamo lavorare ancora meglio, e siamo qui per questo. Quando non puoi vincere sarebbe meglio non perdere, così ha detto Montella. Saluto Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori, ciao a tutti. Oh, intanto 36esimo che se ne sta andando all'Olimpico in questo secondo tempo, che si gioca in ampio ritardo per il nubifragio che aveva colpito alla fine del primo lo stadio di Roma-Sampdoria. Risultato sul 2-2, ma piano piano sta uscendo in questo finale la Samp, che nel secondo tempo ha davvero sofferto. Come ti è sembrata questa Roma? Come la stai vedendo? Beh, ho visto soprattutto Totti. Cioè la Roma all'alba dei 40 anni è ancora Totti, nel senso che è stato un primo tempo disastroso della Roma, con la Sampdoria che faceva completamente gioco. Con il primo tempo è entrato Totti, la solita mossa un po' della disperazione di Spalletti, che già l'anno scorso si era salvato spesso così, e Totti ha cambiato la partita, ha mandato in gol Dzeko, ha mandato in porta tanti compagni, insomma. Da una parte è bellissimo che Totti sia ancora il miglior giocatore della Roma, dall'altra parte forse Spalletti dovrebbe interrogarsi. Ma crea un problema il fatto che alla seconda difficoltà Spalletti sia dovuto ricorrere ancora a Totti, e Totti abbia anche risposto, e quindi magari legittimamente da domani si tornerà a ragionare su un ruolo un po' più attivo di Totti in questa stagione? No, ma un problema no, Totti deve essere una risorsa, non un problema, lo è stato per tutta la carriera. E la Roma, onestamente, da Spalletti in testa, che l'anno scorso lo voleva far smettere, perché questo è chiaro, insomma, Spalletti aveva deciso che la carriera di Totti era finita, e Spalletti e Totti l'ha convinto a suon di gol. E adesso lo sta ancora una volta convincendo a suon di prestazione, di dimostrazioni di che cosa è il calcio, insomma. Per cui credo che Spalletti prima o poi dovrebbe cominciare forse a rivalutare il ruolo di Totti, insomma, dandogli un ruolo, non dico di centralità assoluta perché non può essere a 40 anni, ma l'importanza che merita, non può essere la carta della disperazione, Totti. Carlo? No, non lo so, a me crea tristezza. Crea tristezza il fatto che Totti possa essere l'uomo dell'ultimo minuto, crea tristezza che il Milan, come dicevamo prima, possa essere la squadra dell'ultimo minuto. Totti è un grande giocatore, io credo che avrebbe dovuto dire basta alla fine dell'ultima stagione. Cioè chiudere con gli occhi l'immagine che abbiamo visto l'anno scorso, sì, di Totti, che sì, di fatto ha sigillato la Champions della Roma. Perché costringere Totti ad essere l'uomo d'ultimo giocatore? Beh, perché direttore, perché poi quando lo chiami risponde. Oggi, esatto. Al momento, sennò la Roma starebbe perdendo. È entrato Totti e la Roma ha riadattato la partita, adesso sul 2-2 la sta giocando con la Sampdoria, ma esclusivamente per Totti, perché la Roma continua a essere una squadra anche in questo momento con poco gioco, però con un giocatore fantastico che in questo momento, mentre sto parlando, ha rimesso un'altra volta Dzeko davanti alla porta. Insomma, sì, tra l'altro con uno dei suoi classici tagli, quasi ad occhi chiusi. Sì, perché lui sente il compagno, sente il pallone, sente la porta, cioè non c'ha bisogno di vederla come fanno tanti altri suoi compagni. Insomma. Sì, sì, sì. Ma il calcio si gioca ancora, io capisco che si gioca con le gambe, nel senso che con i polmoni che bisogna avere tanto fiato, però io credo che il calcio si continui a giocare ancora e sempre con la testa, per cui se uno capisce un attimo prima quello che deve fare o sa quello che deve fare, o comunque le gambe fanno, anche magari in un raggio d'azione limitato, però fanno quello che ti dice la testa, è molto meglio di quelli che vanno. Sì, sì, sì. Intanto sta per entrare Iturbe per l'assalto finale al posto di Nainggolan, anzi è entrato in questo momento. Volevo chiedere ad Alessandro Vocalelli se l'abbiamo un po' sopravvalutata questa Roma. Forse anche Spalletti, che ha detto è la squadra più talentuosa che ho mai allenato. Ma la Roma è forte, la Roma è una bella squadra, perché insomma io penso che... E allora dove sta il problema? Fino adesso il problema, mi piace dirlo, all'inizio di questa stagione, poi Spalletti è un ottimo allenatore, ma in questa stagione, all'inizio di questa stagione, sta sbagliando moltissimo, non dico tutto, ma moltissimo. Insomma, l'eliminazione col Porto è stata determinata anche dai suoi errori, e la partita di Cagliari, che lui poi ha trasformato in un problema di personalità della squadra, era un problema di personalità sua, perché ha imbottito la squadra dei difensori dando un segnale sbagliato. E oggi il fatto che dal primo e il secondo tempo, per cambiare la partita, come sta facendo, deve mettere insieme Totti e Dzeko, cosa che non ha mai provato, e cambiare completamente il suo assetto, il famoso falso 9, i tre leggeri, dimostra che se la partita la cambi nel primo tempo così radicalmente, mi viene da pensare che nel primo tempo l'hai sbagliata altrettanto radicalmente. Sì, sì, non c'è dubbio. Siamo quasi in traffico, approfitto degli ultimi 30 secondi di Alessandro Vocalelli, poi voglio anche il parere di Carlo dopo il traffico. Se visto quello che stiamo osservando oggi sulla Roma, abbiamo visto ieri tra Juve e Napoli, dobbiamo sperare almeno in un duello tra Juve e Napoli. Mi pare che sia la squadra di Sarri l'unica che può immaginare, e uso questo termine, di stare alle spalle della Juve. Io credo che potenzialmente la Roma ha la possibilità, non dico di togliere lo scudetto alla Juve, perché la Juve è chiaramente grandissima favorita, non grande favorita, ma ha la potenzialità per stare lì, diciamo, fino alla fine. E il problema è che se poi si fa rimontare due volte a Cagliari, o come sta succedendo oggi, fa questa partita con la Sampdoria, che poi magari ancora può succedere di tutto, però al momento fa questa partita con la Sampdoria, il problema non è che non c'è un'alternativa alla Juve, il problema è che la Roma si sta un po' buttando via. Grazie direttore. Carlo, Alessandro Vocalelli, tu cosa pensi? Non c'è alternativa, cioè la Juventus è troppo forte, è inutile star lì a cinquantarla, come dicono a Milano, la Juventus è troppo forte, non c'è un'alternativa alla Juventus, quindi come ha detto Moratti, che è ancora uno, sì, che ha ancora un'opinione. Che un pochino ci capisce di calcio, ne ha visto tanto. Ne ha visto tanto, perfetto. Tutto il resto è corsa al secondo posto. Sì, sì, sì, sì. È una passeggiata. Ieri la prima mezz'ora della Juve è stata impressionante. C'è il traffico, 42esimo, 2-2 tra Roma e Sampdoria. C'è Nicola Roggero che ci aspetta, perché dopo il traffico facciamo due chiacchiere sul derby di Manchester. No, avevamo iniziato bene la partita, ripeto, era difficile giocare, e l'abbiamo mossa bene, era difficile avere occasioni, di solito in queste partite ci vuole guizzo, un po' un pizzico di fortuna per sbloccarle, un po' come è successo all'Udinese, e la partita cambierebbe. Tutti convocati. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta... Tutti convocati. Si presenta in area De Bruyne, porta in vantaggio il City a casa di Mourinho, quello che non gli aveva mai dato una possibilità con il Chelsea. Ha detto: me lo ricorderò prima di questa partita. Se l'è ricordato, e come? E la cartolina va direttamente in Portogallo. De Bruyne prova a mettere dentro, palo! E poi arriva il gol del 2-0 del City con Iheanacho. Bravo, c'è uno dei suoi sulla linea e arriva Ibrahimovic a riaprire la partita. Perde il pallone in presa, si è scontrato con un compagno, bravo, e Ibra segna il gol che riapre la partita. We play the ball, we have the ball, we lose the ball, we pick up, we win the ball again quickly. In other side you cannot wait, come here in Old Trafford and dominate 90 minutes, it's impossible. Dalle strette di mano, dagli abbracci, mi è venuto a pensare che siamo noi giornalisti che esageriamo sulle rivalità a volte tra i personaggi. Parlo di te, Guardiola. Ovviamente sì. E possiamo avere un altro giorno, un altro problema durante una partita. Però finisce la partita e la gente del calcio è così. Tanto 92esimo all'Olimpico, calcio di rigore per la Roma, fallo presunto di Skriniar su Dzeko, se ne discuterà adesso, poi vi diciamo come va a finire questa partita. Nicola Roggero, ciao Nicola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, se ne discuterà, come credo in Inghilterra si discuterà molto di come Guardiola e il suo City hanno trattato Mourinho, almeno per un tempo ieri. Perché il punteggio, a mio parere, è bugiardo. 2-1 è frutto di un errore clamoroso di Bravo, e in tal senso si potrebbe discutere anche delle scelte di Guardiola, perché ha voluto a tutti i costi questo portiere che l'ha combinata grossa per riaprire la partita e ha rischiato poi di combinarla ancora più grossa nel secondo tempo, rischiando di terminare un rigore quando è andato in dribbling su Rune. Detto questo, la partita è stata abbastanza chiara nella superiorità del City, che avrebbe potuto vincere anche con un maggiore scarto. Quindi tanti spunti di riflessione soprattutto per Mourinho, anche perché mentre il City deve assorbire la filosofia di Guardiola, che secondo me ci vuole un po' di tempo a realizzarla, invece quella di Mourinho, diciamo così, è più semplice nella fase di attuazione. Quindi il fatto che il Manchester United abbia dimostrato questa inferiorità sul City è preoccupante, perché lo United questo è, e più di tanto a mio parere non potrà migliorare. Il City, tanto per cominciare, non aveva Agüero, e non è mica un assetto da poco, per cui mi pare che al di là dei tre punti, al di là di quanto è la partita, che può andare in un senso o nell'altro, l'indicazione sia chiara. L'indicazione è abbastanza evidente. Sì, sì. Intanto è finita Roma-Sampdoria 3-2. Indovina, Nick, chi l'ha ribaltata su calcio di rigore? Francesco Totti, al minuto numero 93. Rigore di cui credo si parlerà tantissimo anche nel dopo partita. Parere personale, rigorino, proprio rigorino, rigorino, rigorino. Ti ringrazio, Nick. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Nicola Roggero, ma rigorino ino, avremo però tempo per parlarne. Dopo il GR delle 18 c'è qualche problema di collegamento sulla linea con Carlo Genta, che comunque ringrazio e saluto, vi aspetto dopo il GR delle 18, 800 24 00 24, se volete intervenire arriva anche Pierluigi Pardo, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Scritto un amico: dei 4 rigori in 3 giornate alla Roma, ne parliamo. Pronto? Ciao amici, sto per arrivare. 800 24 00 24, tutti convocati, weekend. Hanno capito? Andiamo a vincere? Tutti convocati. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Oggi è così, Francesco, hai vinto a 40 anni una partita da solo. No, la partita si vince in 11. Io quando sono entrato cercavo di dare il mio contributo, il massimo, l'ho sempre fatto da 25 anni a sta parte, perciò... Poi sono riuscito a ribaltare la partita, ma tutta la squadra è riuscita a fare quello che volevamo inizialmente. Hai servito assist, hai giocato di prima, hai dato delle autentiche pennellate. Cosa hai pensato al rigore, all'ultimo respiro, quel rigore che pesava così tanto, rigore decisivo? È la prima volta che sinceramente ho avuto un po' di paura di sbagliare, perché coronare questa partita con un gol e un assist sarebbe stato... l'ideale, il giusto per quello che avevamo fatto il secondo tempo. Poi non potevo sbagliare sotto la curva e davanti al mio gruppo. Questo è l'eroe della domenica, almeno per i tifosi della Roma, Francesco Totti, a quasi 40 anni. Entrato secondo tempo, ha ribaltato la partita. Poi sul rigore ne parliamo, state scrivendo in tantissimi, rigore che non c'era, adesso vogliamo le interrogazioni parlamentari. Cerchiamo di capire, cerchiamo di ricostruirlo, però il dato, la notizia è che Totti nel secondo tempo è stato buttato dentro da Spalletti in una situazione difficile con la Roma sotto 2-1, ha servito un assist e alla fine ha ribaltato la partita con il calcio di rigore al 93esimo. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Insomma, siamo sempre qui a raccontare di questi quarantenni. Sì. Beh, bella generazione, quarantenni, adesso non so tu a quanto sei arrivato, però... Sono un po' sopra, però posso pensare di stare dentro lo stesso mazzo, dai. Esatto. Beh, insomma, Totti, su Totti gli aggettivi sono finiti, è chiaro che qui si è trattato semplicemente, si fa per dire, di freddezza dal dischetto e comunque di un impatto che ha avuto, credo, anche di carattere strettamente psicologico sulla partita della Roma. Sì, lo ha detto anche Totti. Prima ne parlavamo con Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. A me viene il dubbio che Totti, che torna così centrale nella Roma, un po' così come è stato nel finale della scorsa stagione, alla lunga magari possa anche rappresentare non solo una risorsa ma un problema. Però questo può essere un tema che approfondiamo. Beh, adesso. Sì, intanto oggi sono due punti. Ad oggi è una risorsa, sì. No, nel senso che io, tu lo sai, insomma, sono sempre stato per semplificare dalla parte di Spalletti, cioè ho sempre comunque detto che Spalletti si poneva un interrogativo legittimo, cioè quello della gestione di un calciatore enorme nella parte finale della sua carriera a fronte di un gruppo e di un ambiente che devono crescere, emanciparsi e pensare al futuro. Questo è indiscutibile. Detto questo, però, se Totti, come è successo nella parte finale dello scorso anno e come è successo oggi, quando entra è decisivo, te lo dico alla romana, di che stiamo a parlare? Cioè, qui siamo di fronte a una convivenza che non è soltanto necessaria, ma è portatrice di cose buone. Insomma, oggi comunque c'è il marchio di Totti, al di là del rigore. Io non ho visto, sono arrivato adesso a pescare in questo momento, quindi ho visto solo il primo tempo, diluvio compreso, però insomma qui stiamo parlando di una cosa di una cosa completamente diversa, mi sembra, no? Una sì, partita che cambia. Stiamo parlando di un giocatore che continua a cambiare le partite, è inutile girarci intorno. Ma tu sei così sicuro che a fine anno Totti appenda le scarpette al chiodo? No, aspetta, prima di rispondere, ti faccio sentire ancora Totti nel bordo campo di Sky. Avevi ragione tu a voler giocare un altro anno vedendoti ancora in queste condizioni. Ma è il campo quello che decide, che l'ultima parola aspetta al campo. Se io sto in queste condizioni e, come ho detto prima, la testa mi porta a fare questo, perché smetto? Pier, perché? Perché no, ma Totti, da questo punto di vista, e questo posso dirti, secondo me è un elemento di grande stima personale che ho per la semplicità di Francesco Totti, il fatto che lui non ha minimamente pensato all'uscita di scena dal punto di vista mediatico, dal punto di vista dello stile, dal punto di vista della massimizzazione della sua immagine. Tant'è vero che lo scorso anno, insomma, quel cortocircuito fastidioso che c'è stato fra lui e la Roma, c'è stato, chiaramente, insomma, non è stata una cosa studiata, ma è stato un vero e proprio incidente che si è creato. Lui risponde soltanto a se stesso e alla sua voglia di giocare a pallone, e questo a me piace molto, perché è una forma di semplicità, vuol dire che non sta lì a fare chissà quali ragionamenti o quali calcoli su come uscire alla grande, no? Por la puerta grande, direbbero gli spagnoli, anche a costo di sfidare il tempo. Lui continua a giocare finché ne ha voglia, quindi adesso francamente il discorso mi sembra prematuro, capisco insomma l'estasi. Sì, no, prematuro però qualche settimana fa Pallotta l'ha detto chiaramente che questa è l'ultima stagione di Totti. L'ha detto anche Totti in qualche modo, no? Sai, l'ha detto anche Totti, però non lo so, io ho l'impressione che avremo da riparlarne se Totti continua ad avere questo tipo di impatto. Sì, è l'11 settembre, mi sembra francamente presto, anche perché insomma a quell'età lì poi i mesi passano veloci, nel senso che possono incidere sull'andamento, non è un 25enne che diventa 26enne, anche se Totti continua a stupirci di partita in partita, di anno in anno, quindi insomma, senza stare adesso a fare l'estasi o la celebrazione elegiaca per la millesima volta di Totti, perché da quello che ho capito, insomma, ha avuto un impatto importante sulla gara, ma Totti nella sua carriera ha fatto cose ben più importanti di quelle che si sono viste oggi. Però c'è, ed è in una partita complicata della Roma, ancora una volta lui con la sua freddezza e con la sua ispirazione a risolvere. Questo è un dato oggettivo. Sì, sì, sì, assolutamente. Pardo, Capuano. Oh, presidente. Gli posso dire una cosa bella. Oh, hai visto com'è sportivo, una cosa bella su Totti, no? Su Totti. Allora, è bravo Totti. Io stavo in tribuna e cantavo: scende la pioggia, ma che fa? Per Sampdoria sto morendo. Poi ho cantato I'm singing in the rain. Però l'ha presa bene, pensavo fosse arrabbiato. Proprio e poi arrabbiato. Ma anch'io, complimenti. Ma poi ho cantato pure La pioggia un bagno al nostro amore quando il cielo è blu. Ricordate? Sì, a me sembra un po' poeta oggi. Ecco, sembra un po' poeta. Li seguite i miei tweet. Sì, come no? Ecco, certo. Poi a un certo momento pioggia è finita, ma qua piove sul bagnato. Io posso dire una bella cosa. Siete stati un po' sfortunati. Io posso dire Giacomelli, morta e sonno. A Giacomelli, morta e fame. Ma non si può dire. Non si può dire. Adesso vediamo anche. Sembrava l'avesse presa bene. L'hanno presa malissimo anche tanti amici a casa. Ma ripeto, l'episodio del rigore, che è un po' tutto da vedere, nel senso che c'è questo leggerissimo tocco di Skriniar sul piede di Dzeko, che poi onestamente va giù abbastanza in ritardo. Io l'ho definito un rigorino, ma aspetto anche di sentire cosa ne dicono Spalletti e Giampaolo, che l'hanno vista sul campo. Abbiamo il traffico, Pier. 800 24 00 24, per chi vuole intervenire. Intanto Conte continua a condurre 1-0 sullo Swansea di Guidolin. Siamo quasi al quarto d'ora del secondo tempo. Il gol di Oscar al 18° del primo tempo. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. La mette dentro ancora Higuain! E vabbè, ma così è illegale veramente! Così è veramente illegale! Così è veramente illegale! E Zielinski allarga per Gaglia-Con, può calciare Gaglia-Con! È doppietta! La seconda consecutiva! 4 gol nelle ultime due partite per Gaglia-Con! Non so se sono pazzo o sono un genio. Possiamo dire che la risposta è Higuain, bianconero, Caglion, guardando le reti segnate. Caglion è un altro tipo di giocatore, è un giocatore fortissimo, tatticamente è un giocatore per noi fondamentale, lo è stato l'anno scorso, lo sarà sicuramente quest'anno, però non è che per ruolo e per caratteristiche a Giuseppe si può chiedere di fare un gol a partita, insomma. Andiamo a comando. Sono convintissimo che questa può diventare una squadra veramente forte. Andiamo a comando. L'importante è che la Juventus vinca lo scudetto, perché gli ultimi tre anni che il capocannoniere non ha mai vinto lo scudetto, quindi l'importante è che la Juventus vinca lo scudetto. Andiamo a comando. Il fatto che tutti i giorni ci sentiamo dire che la Juventus è la più forte, che vince facile lo scudetto, che vince la Champions, che vince l'Italia Coppa Italia, che vince la Supercoppa, questo non ci fa che male. Perché? Perché perdiamo un po' il senso della misura e soprattutto perdiamo un po' di equilibrio. Saluto Giovanni Galeone che ringrazio della pazienza anche per l'attesa, grazie mister. Grazie a voi, buongiorno. Intanto vi racconto una cosa incredibile: noi siamo andati in traffico col Chelsea avanti 1-0 sullo Swansea, gol di Oscar al 18esimo, siamo 2-1 per lo Swansea. Ha pareggiato su rigore con Sigurdsson e poi 60 secondi dopo suicidio difensivo di Cahill e gol di Fer, quindi Conte è sotto 2-1. Direi che è agghiacciante. Sì, agghiacciante soprattutto il modo in cui ha preso il secondo gol. Abbastanza clamoroso. Sì, no, ma agghiacciante soprattutto il modo in cui ha preso il secondo gol. Praticamente Cahill si è fatto sfuggire il pallone dai piedi davanti all'area di rigore e ha mandato Fer solo davanti a Courtois per il gol del 2-1. Questo è, ieri abbiamo visto l'approccio di Blind al derby di Manchester. Diciamo che in Premier non ci sono grandissimi difensori. Abbiamo chiamato Galeone invece per capire se ha tratto qualche indicazione dal sabato di Juventus e Napoli. No, che indicazione vuole che traga? La Juventus è formidabile, come tutti hanno modo di vedere, ha fatto 20 minuti veramente fantastici. Gioca come l'anno scorso con gli stessi meccanismi, però con una tecnica migliore, perché ha messo dentro due grandissimi come Pjanic e Higuain. Dybala è entrato definitivamente a far parte dei grandi, con un po' di pazienza Max l'ha portato a giocare nella maniera giusta e ha davanti Higuain che insomma risolve ogni partita, quindi ha mantenuto lo stesso modulo di gioco. Adesso bisogna vedere se in Europa cambierà qualcosa, come io mi auguro. Cioè non va bene giocare con la difesa 3? Non sempre andrà bene. Io sono convinto che abbia possibilità offensive migliori giocando con due centrocampisti e i tre dietro l'unica punta, i tre che dovrebbero essere Dybala, Pjanic e Piazza e Higuain davanti, però non può farlo ancora perché non ha Marchisio, perché non è riuscito a prendere Witzel e perché soprattutto non ha preso uno come Matic, che a mio avviso sarebbe stato ideale per quel tipo di gioco. Pierre, pure oggi in tanti hanno scritto la Juve è cresciuta, la Juve ha un gioco finalmente europeo. Giovanni Galeone ci sta dicendo il contrario, cioè sì, questo gioco qui è perfetto per l'Italia, ma forse serve qualcosa di diverso. Guarda, Galeone conosce Allegri meglio di Allegri conosce Galeone, in certi momenti viene da pensare che siano la stessa persona, perché il livello di affinità credo che sia totale. E penso sinceramente che quindi anch'io modestamente, per quel poco che invece conosco Allegri, penso di poter dire che sicuramente lui vorrebbe giocare a 4, l'ha fatto, lo farà. Credo che sia un tipo di soluzione che dal punto di vista della mentalità e della proposizione di gioco possa dare molto di più. Certo, la Juve in questo momento sta facendo cose eccelse, quindi è abbastanza normale, abbastanza fisiologico che sull'onda emotiva di quello che abbiamo visto ad esempio ieri nella prima mezz'ora uno possa dire che c'è stato il passo avanti anche in Europa, ma questo non lo so, lo dirà soltanto l'Europa, che poi tra l'altro è una competizione diversa per sua stessa formula, no? Perché comunque sappiamo che l'Europa si basa anche su una serie di episodi. A me sembra che la Juve abbia cominciato benissimo la stagione e la prima cosa che mi viene da pensare è che possa uccidere il campionato, anche se il Napoli non va sottovalutato, quindi sta facendo delle grandissime cose. Poi il resto si vedrà, il resto sappiamo che in Europa passa da un episodio, da una partita. Basta che pensi quello che è successo a Monaco di Baviera, dove Allegri aveva fatto la partita perfetta e dove per un errore banale di un giocatore oltretutto esperto, come Vrà, assolutamente esperto, cambiano tutto. Sì, ma c'è campionato o no? Cioè il Napoli visto ieri, lo chiedo a Giovanni Galeone, può in qualche modo pensare di tenere aperto un ipotetico duello con la Juve? Il Napoli è una squadra, tra parentesi, che ha operato molto bene sul mercato, perché è vero che ha perso Higuaín, è chiaro che 36 gol sono tanti, tantissimi, ma Milik è un ottimo giocatore, molto più bravo di quello che vogliono far vedere. In più a metà campo si è rinforzata benissimo, perché Zielinski, che è un mio pallino da 5 anni, da quando non giocava nell'Udinese, non so come facessero a non farlo giocare, dà qualità alla metà campo, grande qualità alla metà campo di Sarri, che tra parentesi è un allenatore che vuole che il gioco si sviluppi soprattutto sulla metà campo, e quindi qualità con Hanšík, questo Zielinski, Jorginho che ce l'ha sicuramente, se magari Insigne si tinge di nuovo i capelli normali, può darsi che faccia qualcosa di meglio. Particolare quel look, biondo flat. Sì, no. Bene, sta combinando un po' di tutti i colori. L'anno scorso voleva il 10 di Maradona, adesso si pittura i capelli come Neymar e Messi. Boh, insomma, un minimo almeno. Pier, tu che voto dai, Pier, alla pettinatura di Insigne? Io alla partita di ieri Io ho cenato con Insigne settimana scorsa e abbiamo... E com'era pettinato? Era così ormai da una quindicina di giorni, e mi ha detto che c'è un motivo, non gli ho chiesto quale, perché in questo sono veramente poco giornalista, non sono voyeur, non mi piace rompere palle, però credo ci sia un motivo. Poi non so se è un motivo scaramantico, se è un motivo di una scommessa, se è un motivo, sembrava un motivo serio, cioè non sembrava puramente un vezzo, però veramente non voglio dare exit poll su una roba detta a cena. Mi sembra che comunque lui sia un giocatore importante, è chiaro che è un giocatore che ha dei mezzi tecnici enormi e non sempre ha avuto continuità di rendimento. Secondo me sinceramente l'anno scorso c'è stata anche un po' di sottovalutazione di Mertens, cioè se noi guardiamo il minutaggio di Insigne rispetto a quello di Mertens è stato sempre nettamente superiore, forse fin troppo, perché Mertens secondo me è un altro giocatore molto importante. Sai, quello insostituibile lì è Callejón, perché Callejón gli dà un equilibrio tattico, anche lo scorso anno con Higuaín gli dava un equilibrio tattico clamoroso, quindi significa che tu hai un tridente, ma dei tre è certamente quello che ti dà anche più protezione della fase difensiva. Ma quindi fatemi capire, ma quindi Sarri cosa fa? Sta mettendo le mani avanti? Quando lo abbiamo sentito sabato dice: ma io non lo so, abbiamo fatto un mercato di prospettiva, ma è tutto da dimostrare che siamo una squadra più forte dell'anno scorso, mister. È più forte sì dell'anno scorso. Quindi Sarri fa il furbo. Ma sì, c'è la storia di Higuaín chiaramente, ma si sapeva che poteva andare via. Se si trovava una squadra, si mette una condizione del genere, se uno pone una condizione di 90 milioni, l'altra volta quando ho cenato con Max gli ho detto: ma che te ne frega di dargli giocatori o non dare giocatori a Napoli, va in Lega, versa 92 milioni di euro, se ti diventa anche De Laurentiis se te lo porti a casa, ma che discorsi sono? Quindi il Napoli sapeva che c'era la possibilità di poter perdere anche Higuaín, però a mio avviso è una squadra che mantiene un suo assetto importantissimo, e poi ha preso dei giocatori forti tutti, da Malinkovic a Zielinski a Milik, e cioè ha tenuto Gabbiadini che sembrava dovesse andare via, c'è sempre Callejón, Martins e Insigne, insomma è un'ottima squadra, dietro fortissimo. Non è andato via Koulibaly come sembrava dovesse andare. Io non vedo Sì, il discorso dei 36 gol di Higuaín. Quindi sta cercando però di togliersi un po' di pressione, come gioco, Sarri. Come gioco, a mio avviso, migliora ancora rispetto allo scorso anno, che era già un gioco interessantissimo, importantissimo. Insomma, poi finalizzato da Higuaín, d'accordo, adesso bisognerà che faccia qualche gol in più Martens, che faccia qualche gol in più Insigne, che faccia qualche gol Milik, e cercare di stare dietro la Juventus, però chiaramente la Juventus è più forte, insomma, sì, questo sì. Non c'è dubbio. Intanto Napoli 9 gol negli ultimi 4 anni li ha fatti solo la prima volta, quando c'era Benitez l'anno scorso, dopo 3 giornate ne aveva fatti più o meno la metà, era quota 5. Grazie mister Galeone. Grazie a voi. Grazie Giovanni Galeone. Te Pier, che impressione hai di Sarri che cerca di scaricare pressione dopo questo mercato? Buono. Eccoci. Sì, che impressione ti fa Sarri? Fondamentale, sì. In cui dovevo entrare nello stadio e quindi dovevo parlare un attimo con la persona che era al controllo del cancello. Ma Sarri, io l'ho detto tante volte, voto in campo 9. Voto nelle dichiarazioni, nelle polemiche, in certi atteggiamenti 6,5-7, cioè secondo me dove può migliorare, e glielo dico in faccia, è in questo, nel senso che comunque lui oggi allena una grande squadra. La famosa battuta della tuta, giusta o sbagliata che sia, dopo Napoli-Milan, in ogni caso se tu sei un allenatore di una grande squadra, il Napoli è una grande squadra, ha l'ambizione di esserlo ed ha la realtà di una grande squadra, mettiti la giacca, mi verrebbe a dire, no? Se veramente tu sei convinto che un allenatore in tuta venga trattato peggio di un allenatore in giacca e cravatta, mettiti giacca e cravatta, una volta tanto a settimana mettitela, non so come dirti, cioè secondo me questo sentirsi eternamente provinciale, che da un lato è molto bello, e soprattutto Sarri ha fatto la gavetta, si è fatto la sedia, vogliamo tutti bene, io sinceramente ho una stima clamorosa nei suoi confronti, però insomma poi alla fine si cresce, no? Si cresce e si impara a fare delle altre cose. A me sembra che lui ogni tanto dia degli alibi ai giocatori e qualche volta pure a se stesso. Per il resto in campo fenomeno. Il Napoli è fortissimo, il Napoli secondo me è la seconda forza del campionato, sì, Napoli che gioca bene, c'è poco da dire, gioca bene, gioca un bel calcio anche molto offensivo, divertente, quindi insomma, e sono d'accordo con Galeone che non è indebolita. Certo, Higuaín pesa perché è andato dall'altra parte, cioè perché la forza della Juve con Higuaín e Pjanic sembra ulteriormente aumentata, avendo strappato il miglior giocatore del Napoli e uno dei migliori giocatori della Roma. Però insomma io credo che ancora ci siano, il campionato non può essere chiuso dopo 3 giornate e il Napoli secondo me è ben messo. Quello che ha di diverso rispetto alla Juve è che ha meno equilibrio, per cui la Juve per ora è perfetta, il Napoli è perfetto davanti ma non è perfetto dietro. Sì, e si è visto anche ieri. Ci dobbiamo fermare un minuto, 800 24 00 24, c'è già Raffaele da Cuneo. E torniamo subito. Sapeva che lavorando il gol arrivava, per fortuna ho potuto farlo, ho potuto aiutare la squadra e dobbiamo continuare per questa linea di lavorare tutti insieme, di stare tutti insieme, che alla fine è lo che conta, no? Per vincere. Tutti convocati. Tutti convocati. Raffaele da Cuneo, Raffaele. Sì, buonasera. Eccoci. Io, guardi, il mio intervento era solo relativo al rigore che è andato alla Roma al 95esimo. Sì. Al di là del fatto che ho rivisto l'azione in TV diverse volte e mi sembra proprio, cioè, che sia un rigore inesistente, ma quello che volevo puntualizzare è il fatto come in Italia anche i mezzi di informazione, quando si verificano episodi di questo genere, non mettono, cioè favoriscono questa poca credibilità del calcio italiano, dettato proprio dalla mancanza di sportività di molti atleti. Cosa dovremmo fare? Ma Zecco in Inghilterra l'avrebbero fischiato persino i tifosi della sua squadra, cioè, ma veramente non possiamo accettare. Però posso dirti, sai cosa penso, Raffaele? Io non penso che Zecco abbia simulato. Cioè, Dzeko, secondo me, va fuori equilibrio e semplicemente cade, e io credo che però non cada per un contatto falloso. Cioè, non c'è, perdonami, non c'è la simulazione nel senso classico del termine che conosciamo. Sì. Se è questo a cui... Sì, ma anche perché lui fa uno stop, lo fa già in condizioni precarie di equilibrio, e poi secondo me perde l'equilibrio, c'è un leggerissimo tocco. Io l'ho definito subito in diretta, ho detto rigore di cui discuteremo molto, rigorino se tutto va bene. Guarda, non ho avuto l'occasione poi di rivederlo più tanto, e quindi non voglio nemmeno sbilanciarmi con una sentenza, però non credo ci sia la simulazione, questo volevo dire, Raffaele. Però sì, al di là di quello, mi permettimi, io ho giocato a calcio e sono anche un allenatore patentato, adesso ho smesso da tanti anni. Sul campo si vede subito quando un rigore è vero oppure non esiste. Gli arbitri sono molto vicini all'azione. Secondo me in Italia c'è molta sudditanza psicologica nei confronti di alcune squadre, e la Roma è una di queste, come la Juventus, e questo inficia, a mio modo di vedere, la credibilità proprio del calcio, dello sport, perché sinceramente io mi metto nei panni dei tifosi della Sampdoria che magari hanno affrontato la trasferta, andare a Roma a vedere una partita alla loro squadra, perdere all'ultimo minuto per un rigore creato così ad arte dall'arbitro. Cioè, io avrei tutte le ragioni per sentirmi offeso, arrabbiato e anche umiliato. Poi continuiamo pure così, però poi non lamentiamoci che il calcio da altre parti è sinonimo di sportività, di altri valori che noi non abbiamo, e i mezzi di informazione in Italia sono particolarmente asserviti a questi valori. Ma, cioè, insomma, io adesso su questo non sono tanto d'accordo, ma non è una questione di difesa corporativa. Insomma, io credo che domani leggeremo da tanti posti se, come ci pare, insomma, che il rigore probabilmente non c'era. Così come oggi abbiamo letto ad esempio che era fallo di mano quello di Chiellini ieri contro il Sassuolo, Piera, che altro episodio che è stato tirato fuori, che secondo me non dice nulla nella partita che abbiamo visto ieri, ma che effettivamente è stato un errore di Bello, dell'arbitro. Sì, sì, sì, ma è tornata molto giusta, cioè che poi bisogna, secondo me, nelle partite, ma lo dico così la sana conoscenza del gioco, capire gli episodi, quanto impattano, se impattano, nel senso che in alcune partite sono degli episodi che sono decisivi. Immagino che si disputerà per rigore di Totti, anche se poi mi dicono che per esempio sulla fine del primo tempo c'era una situazione per Nainggolan che era stato fermato in fuori gioco e non lo era. Ma insomma, è chiaro che ci sono episodi che sono più decisivi, perché magari avvengono negli ultimi minuti, perché hanno una capacità di condizionare la partita un po' più forte. Nello specifico di ieri mi sembra che il tetto sia stato talmente evidente, talmente largo, che c'è poco da dire. Sì, assolutamente. Saluto Andrea Sorrentino, Repubblica, credo anche lui a Pescara. Andrea? Sì, ciao a tutti, sono a Pescara. Buongiorno a tutti. Che tempo fa Pescara? Perché Pescara non è lontanissimo da Roma, dove oggi abbiamo visto scatenarsi il putiferio. Sì, sì. C'è stata una pioggia stamattina, ma adesso è tutto a posto. Sì, sì. Un po' nuvoloso, ci sono elicotteri che volteggiano come in Apocalypse Now, ma perché siamo nei dintorni dello stadio, però tutto tranquillo. Intanto vi dico che Spalletti a Mediaset Premium ha detto che Dzeko ha preso una botta sulla gamba, era assolutamente calcio di rigore, segnalato anche abbastanza nervoso Spalletti per le contestazioni sulla decisione del direttore di gara. E vi dico anche che il Chelsea ha pareggiato con Diego Costa, 81esimo, 2-2 contro lo Swansea. Mancano 9 minuti alla fine della partita. Buonasera. Sì, presidente, buonasera. Una buona serata a tutti. Ho sentito che avete il comunista di Repubblica. No, non abbiamo comunista. Chiamate di Repubblica. Sempre il comunista di Repubblica, ma io non sono qui per ascoltare Sorrentino, naturalmente. Ma su, ormai certe cose sono passate, presidente, su, ormai appartengono alla memoria. Lasci perdere, Sorrentino. Comunque, non è neanche suo, visto che certe cose non le dice il comunista Sorrentino, sì. Io invece ho delle notizie che vi darei. Però noi volevamo parlare dell'Inter. Ecco, invece, sì. appunto, io vi dico che ci sono delle ottime possibilità. Io vorrei consigliare alla nuova dirigenza del Milan degli ottimi dirigenti. Sì, sì, ecco, sì. Per esempio, non ci dica presi dall'Inter, però. Allora, ci sia, sono, sia più originale. Allora, ci sono Marco Branca, che mi sembra che mi sembra un grandissimo dirigente. Sorrentino comunista, ascolti, si faccia un'idea. Dopo Marco Branca, mi sembra che un ottimo ex giocatore, molto coeso e positivo, sì, è il Cucu, Estegan Cambiasso. Che, insomma, è un gran giocatore. Sì, però, però come dirigente faceva... Lui è adatto per un ruolo societario. E poi, insomma, come dimenticare lo zio, Beppe Bergomi. Come bandiera, no? Potrebbe essere un ottimo direttore, direttore, non credo osservatore, sia, potrebbe essere responsabile dei rapporti con ma la squadra. Dai, già i tifosi del Milan sono arrabbiati che gli mandano due o tre... Molto coeso e molto tre, positivo. Due o tre dirigenti dell'Inter. Andrea, cosa dobbiamo aspettarci dall'Inter? Ah, ma continuate con Sorrentino, il comunista! Vergogna! Cosa dobbiamo aspettarci dall'Inter di stasera, Andrea? Quella vera, non quella... Guarda, siamo tutti qui proprio come davanti a un foglio bianco in attesa di vedere scritto qualcosa, perché l'Inter, ridendo e scherzando con la campagna acquisti che ha messo su in quest'estate un po' particolare, è arrivata ad avere come valore dei giocatori, valore di mercato dei giocatori, il secondo valore assoluto dopo la Juventus. Quindi è una squadra che, al di là di quello che possono dirci i valori numerici, economici del mercato, è una squadra che ha delle qualità, ha anche una certa abbondanza a centrocampo che potrebbe essere ben sfruttata. Il problema è che l'Inter ha un allenatore nuovissimo che viene da Saturno, cioè da un mondo che è molto diverso dal nostro, non conosce l'Italia in alcun modo, non l'ha conosciuta neanche da giocatore, quindi aver scelto De Boer dopo un'estate di tira e molla con Mancini è stato secondo me un errore strategico gravissimo da parte della società, che ha enormi responsabilità in questa, nell'andamento di questa estate. Quindi è come se l'Inter adesso ricominciasse da capo con un allenatore che non conosce nulla, che non conosce il nostro ambiente, che non conosce neanche i giocatori che ha a disposizione e fatica a conoscerli, perché adesso abbiamo avuto due settimane di sosta per le nazionali, quindi ci vorrà molto tempo. E quindi è da capire questo, se De Boer sarà bravo a sfruttare nel poco tempo che ha avuto per mettere su una squadra che risponda alle sue esigenze. Questo secondo me è molto difficile vederlo già stasera a Pescara, quindi ci vorrà del tempo, ma sì, il tempo non c'è, perché domenica prossima c'è già la Juve, quindi la Juve, è una situazione molto complicata. Sì, molto anche perché la Juve, insomma, mi pare sia abbastanza in condizione, ma così, visto, visto ieri come ha preso a parlare il Sassuolo. Sì, la Juve, insomma, sta benino. Esatto, poi magari diciamo che il Sassuolo poteva difendere un po' meglio in area in quei primi 15 minuti, però questo è un altro discorso. Di sicuro la Juventus sta bene, l'Inter non sta benissimo, l'abbiamo visto nelle prime due partite, adesso dopo le nazionali vedremo cosa metteranno su stasera. Il Pescara intanto corre, è veloce, è molto entusiasta, si è allenato in queste due settimane a casa senza tante assenze, quindi sarà una partita molto difficile anche sul piano del ritmo secondo me. E l'Inter è in salita, e ripeto, ribadisco, il bravo Frank De Boer, che è senz'altro un bravissimo allenatore, non c'entra nulla, ma è stato messo in una condizione molto particolare da una dirigenza, secondo me, non professionalissima, perché... Che Roberto Mancini che ha sbagliato l'approccio, che ha sbagliato certamente l'approccio di quest'estate. Io personalmente ritengo che il tempo di De Boer non sia ancora molto lungo, non il tempo in panchina dell'olandese, ma il tempo in cui si potrà ragionare delle difficoltà di questo avvio di campionato. E non so cosa ne pensi tu, Pier, tornando sempre sull'estate, su Mancini, la preparazione, insomma, io già stasera credo siamo a un bivio importante. Guarda, tutte le volte che parliamo di Inter alla fine la parola tempo viene sempre tirata fuori, un po' perché c'è una storica difficoltà degli ultimi anni che quindi mette pressione e accelera la velocità, la necessità di fare risultato. E poi in secondo luogo perché il tempo a disposizione di De Boer è poco, perché come dice giustamente Sorrentino viene da Saturno. Il problema è che l'altro allenatore che veniva da Iesi, cioè da 100 km, 120 km da qui, dove ci troviamo adesso a Pescara, comunque sappiamo che non ha funzionato, non era più lui, aveva dei problemi di incompatibilità con la società, quindi insomma sì, si poteva forse puntare su una scelta un pochino più di... diciamo più semplice, più a conoscenza della lingua italiana e del campionato italiano. È stato fatto un azzardo ulteriore, ma deve essere il progetto di medio periodo di questa dirigenza. Quindi francamente valutare De Boer adesso sul brevissimo periodo è fuorviante. È stato preso credo sicuramente non per far bene le prime 4-5 giornate, ma per far bene nei prossimi 4-5 anni. Questa è l'idea. Certo, è un azzardo, il tempo è pochissimo, il calendario non aiuta, la partenza è stata pessima. Sono d'accordo perfettamente con Sorri su tutte le possibili difficoltà di questa serata, anche perché il Pescara comunque è una squadra che ha grande ritmo, grande corsa, ha già una fisionomia di gioco molto precisa. Sì, quindi... esattamente quello che può mettere in difficoltà l'Inter, già esatto. Visto contro il Chievo alla prima di campionato. Esatto, quindi... Sì, Andrea. No, dico, se poi De Boer evita di fare esperimenti e soprattutto in questa fase iniziale un po' particolare mette in campo i giocatori secondo caratteristiche, poi andiamo a vedere che magari l'Inter può avere un tridente con Candreva, Perisic, Icardi, che è perfetto e che non ha nessuno in Italia, può avere tre centrocampisti come Medel, Banega e João Mario, che sono ottimi tutti e tre loro, anche se manca il regista, e se li mette in campo in un certo modo fanno il loro lavoro, mette quattro difensori bloccati dietro come si fa nell'ABC del calcio e magari qualcosa di buono può tirare fuori. Ecco, De Boer non deve rischiare, non deve improvvisare difese a tre come ha fatto la prima partita, deve mettere i giocatori giusti nei posti giusti senza rischiare granché. Poi gli esperimenti e il lavoro lo farà più avanti, però adesso nelle prime partite deve andare sul sicuro e quello deve fare, e speriamo che lo faccia per l'Inter. Sì, certo, perché sarebbe complesso arrivare domenica prossima alla sfida con la Juve, ad esempio, con un paio di punti, senza immaginare una sconfitta oggi a Pescara. Questo mi fa pensare anche, per esempio, al primo periodo di Allegri. Sappiamo che era stato accolto alla Juve con un certo scetticismo e lui fece delle scelte molto, molto conservatrici, molto in linea con la gestione precedente. Ora è chiaro che lì era più facile perché la gestione era una gestione vincente e qui invece non c'è in questo momento un modello, anche nella fase dei successi dello scorso anno, che pure c'era stata nella prima metà della stagione per l'Inter di Mancini, però c'era stata una grande confusione, vi ricordate quella rotazione infernale di uomini, la formazione che cambiava di settimana in settimana, quindi oggettivamente non è facile, però è vero pure quello che dice Andrea, cioè comunque poi la qualità c'è. C'è addirittura troppa, cioè sette centrocampisti sono quasi troppi, e Gnucuri e Felipe Melo mi sembrano sì, ma fuori soprattutto perché sono sette, di sette manca il regista forse ancora, regista, poi vedremo esatto, stasera che cosa farà di Banega, esatto. Non sono esattamente assortiti benissimo, però la qualità, la quantità di talento che ha a disposizione è tanta, l'assemblaggio è complicato, ma la quantità di talento è tanta, perché insomma Banega, João Mario, Candreva, lo stesso Eder... Brozovic, sì. Infatti sta diventando un panchinaro, ma è un giocatore che piaceva al Chelsea, che piaceva a tante squadre, che piaceva alla stessa Juve, insomma io credo che francamente ci sono grandi margini, è complicato, è tutto molto complicato e davvero aggiunge a complicazione, fin qui ha aggiunto ulteriori legittime difficoltà di uno che viene... come diceva Sorrentino, la Saturno. Abbiamo il traffico. Abbiamo un inglese in netto miglioramento nelle ultime settimane, vedremo stasera. Beh, insomma, abbiamo il traffico. Ringrazio e saluto tutti e due. Buona partita, Pierluigi ciao, Pardo, ragazzi. Andrea Sorrentino. A domani, Pier. Ciao, buonasera. Ciao, ciao Andrea, ciao. Grazie. Traffico, torniamo subito. C'è Spalletti scatenato, gli stanno facendo rivedere le immagini del rigore su Dzeko. Tutti convocati. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Tutti convocati. Ultima staccata per Daniel Pedrosa. Tutti in piedi sul muretto. Daniel Pedrosa c'è. Pedrosa c'è e vince. Pedrosa c'è, torna a vincere davanti a un eccellentissimo Valentino Rossi, a un ottimo Jorge Lorenzo in terza posizione. Sì, ho fatto il massimo, però oggi non è stato il mio giorno. Semplicemente tanto Valentino come Dani hanno andato più veloce. Ci ho provato ad stare con loro, però non ho potuto. Alla fine della gara mi scivolava troppo il pneumatico e ho dovuto chiudere. E soprattutto Dani ha meritato la vittoria. Sono molto contento per lui, perché è stato un periodo molto duro, ma lui non ha mollato e sempre ha avuto fede in se stesso. Ogni volta che vedevo che il mio vantaggio diventava più grande su Lorenzo Marquez, mi passava la fatica, no? E a un certo punto sinceramente ho pensato di farcela, poi ho visto spuntare sulla mia tabella questo nome Pedrosa e ho pensato, cazzo, proprio oggi deve andare così, che non potevo aspettare una settimana, che è Aragon la prossima, che è anche in casa. Ci ho provato ma non c'è stato niente da fare, andava di più. Sì, sì, complimenti, bravo, bravo. In questi giorni dicevamo, beh, potrebbe esserci l'ottavo vincitore diverso. E tu durante le interviste dicevi, no, no. Ma lo dicevi per scaramanzia o forse no, non si sa mai. Quest'anno si vede, no? Ogni gara cambia un po'. Aspettavo di fare meglio delle altre gare perché già sul venerdì avevo un meglio feeling che alle altre gare. E dopo Valentino è partito impressionante, è andato via subito. E non pensavo di poter andare con lui. Tanto è finita 2-2 Swansea-Chelsea. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Giovanni, un saluto a tutti. Allora, vi raccontiamo anche che poi il dopo gara è stato abbastanza movimentato con insomma Lorenzo e Rossi che se le sono dette in conferenza stampa, sorpasso aggressivo, il suo stile, non è vero, riguardi le immagini. Però insomma Pedrosa poteva anche aspettare una settimana. Dai. Sai, Pedrosa fa una gara buona all'anno e purtroppo l'ha fatta proprio questa volta. Doveva essere la gara capolavoro e così ha fatto Valentino, perché non gli si può dire niente, è partito bene. In partenza Lorenzo strepitoso, però ha rotto subito gli indugi e già presto, l'ha passato in un punto dove di solito non si passa e infatti non se lo aspettava Lorenzo. Gli ha proprio dato uno schiaffo emotivo, non si è più risollevato, ha preso e andato. Ma da dietro, prima Dovizioso, poi Vignales, poi Marquez e infine filato Lorenzo, questo Dani Pedrosa, ragazzi, era una cosa strepitosa, soprattutto nei cambi di direzione. Una Honda che è migliorata tanto, diciamolo, perché ti ricordi Giovanni, abbiamo sempre detto per vedere dov'è il livello della Honda bisogna guardare Pedrosa. Oggi invece Pedrosa ha fatto il colpaccio. È vero che è opera sua, però la Honda c'è da dire che è cresciuta molto. Si è detto delle gomme, però una ciclistica molto rapida che soprattutto nel quarto settore dove serve l'agilità nei cambi di direzione era spaventoso Pedrosa oggi, davvero imprendibile. Peccato però. Sì, peccato, ma non si sarebbe probabilmente riaperto comunque il mondiale, diciamo la verità. Rossi ha 43 punti di distacco da Marquez, ce ne sono 75 in palio da qui alla chiusura. È la quarta volta che sta davanti a Marquez. Ma guarda, io però ti do un altro numero, insomma Marquez vincerà il mondiale. Nelle ultime 10 gare ha vinto una volta e 4 volte è andato sul podio. Insomma, qui siamo ben oltre la ragioneria. È un Marquez ragioniere davvero, e questo con Dani è l'ottavo vincitore in 8 gare, mai visto un mondiale così, grazie anche alle Michelin, perché c'è molto più assortimento, quindi i piloti possono scegliere più possibilità e devono cucirselo addosso, abbiamo già detto tante volte grazie a questa elettronica, però quest'anno lo spettacolo non manca e ci sono più possibilità per tutti, tant'è che va a vincere un Crutchlow, un Vignales che si è sbloccato, un Iannone, anzi peccato per lui, ricordiamolo, perché non ha potuto partecipare. Comunque grande gara, si è visto una gara di livello, di solito è più noiosa a Misano, invece abbiamo visto delle linee nuove e dei sorpassi in punti inaspettati. Ma a Valentino non gli si può recriminare nulla perché aveva fatto il capolavoro, purtroppo ha trovato un punto di domanda, perché Dani nessuno se lo aspettava, ma lui ha fatto così, negli ultimi anni c'è sempre una o massimo due gare dove fa la differenza, è che purtroppo gli manca la costanza. Sì, sfortunato Valentino Rossi, io lo dico, ma ci sarà tempo per approfondire, anche domani, anche con Roberto Ungaro. L'anno scorso è andata come è andata, ma questo, e questo è il mio pensiero, è il grande anno dei rimpianti di Valentino Rossi, pensare a quei 3-0 e Marquez che rischia di vincere il mondiale davvero giocando da ragioniere, io voglio dire quasi da comparsa per più di mezza stagione, almeno uno di quegli zeri, se non ci fosse stati 3-0 di Valentino Rossi, ne parliamo domani, Roberto, ne parliamo assolutamente domani, assolutamente sì, questo domani. Mi sa che è l'anno dei grandi rimpianti di Valentino Rossi. Grazie Roberto. A te un saluto a tutti, a domani. A domani, beh, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi, Paolo Corleoni. Sì, se, in volete, regia. Se volete parliamo di Nizza Versiglia. No, non parliamo di Nizza Versiglia. Parliamo di Liga 1. Sì, questa sera gioca Balotelli. Però non chiedetemi di tornare in Italia, perché io in Italia non torno. Ma la mia è una decisione calcistica. Ma io in Italia non torno. Non parliamo nemmeno del campionato francese. Bellissimo spettacolo di sport. Bravi.